cucciola, su che andiamo. Ma dove vuoi andare tu? Dove vuoi andare? Brigido! Brigido! Rispondi? Ebbene, Brigido! Dove Billy? Su che andiamo? Via! Per carità, morto sono, altri morto, morto, morto sono. Me la posso immaginare. Sto la testa che cazzo ce l'ho sbagliata, no? No, di più no, di più. Io sono sempre a dolori, cazzo. Speriamo che adesso lunedì mi faccia l'impegnativa questa qui, che troviamo un urologo che mi faccia questa visita. Io. So, ma lì ci sono dolori atroci, che e adesso mi mangio qualche cosa, mezzo chilo di tortiglia all'acciuga, la luce, ho fatto un po' di panvetta, anche per semolo, e per peperoncino con pancetta, e poi due cosette di pollo, e vi andare, e poi mi ci curico, a domani. Le 5? No, cazzo le 5, domani faccio la notte, Natale. Cazzo la mamma riposa un po'. Domani notte, 10:30, fino alle 6:30. Sì, vabbè, domani mattina almeno ti riposi, dormi bene. E cosa lo sveglia? Manuele sveglia, manco ricano un addi. Vabbè, dai, ti lascio andare a Magna. Ci sentiamo dopo, Natale. Rimango in ascolto comunque, lo lascio acceso, dai, sentiamo un po' di QDM. Ok, buon tutto, dai, rimango in ascolto.